alta voce. Edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. 5ª puntata. La prigione dove Sara viene portata a passare la notte è il Compter, il carcere per debitori, ma l'indomani, 5 febbraio, viene tradotta a Newgate. La sua fiducia non è ancora incrinata, è ancora convinta di farcela, di essere più brava, più furba, di poterla fare in barba a tutti. Continua ad alternare bugie e confessioni, a contare sulla complicità dei compagni di prigionia, ma a tradirla sono proprio loro. La sua fiducia è un misto di ingenuità e di hubris. La verità è che Sara, la spavalda criminale del Temple, si fida di tutti e soprattutto di se stessa. Così incredibile è la storia di quelle prime ore che conviene ascoltarla dalla sua bocca. Quando ero nel Compter, ho visto per caso un giovanotto che conoscevo in catene. Gli ho detto che mi dispiaceva di trovarlo lì e gli ho dato un farthing e uno scellino e ho ordinato un quarto di rum per farlo bere. Poi sono andata nella mia cella e ho sentito una voce che mi chiamava. Dietro la tenda c'era un gonfiore. Un po' sorpresa guardo che cos'era e trovo un buco nel muro attraverso il quale il ragazzo a cui avevo dato lo scellino parlava con me e mi chiedeva se avevo mandato a chiamare i miei amici. Gli ho detto di no. Dice che farà quello che può per me e se ne va. E poco dopo mi chiama di nuovo e mi dice: c'è qui un amico. Guardo attraverso il buco e vedo entrare Will Gibbs. Credo che fosse Will Gibbs. Mi dice: chi c'è che può giurare contro di te? Gli dico che i miei due padroni sarebbero i testimoni principali. E di cosa ti possono accusare? Dice. Gli ho detto che la sola cosa era il boccale, perché non c'era nient'altro che pensavo mi potesse nuocere. Niente paura allora, dice lui, ce la caveremo. Troveremo gente che spergiuri che il boccale era di tua nonna e che tu stavi a Shoreditch la notte che è stato commesso il fatto. E avremo due uomini che gli sparano ai tuoi due padroni. Ma, dice, uno dei testimoni è una donna e non giurerà per meno di 4 guinee. Gli uomini però giureranno per 2 guinee a testa. Così se n'è andato e ha portato una donna e 3 uomini. Gli ho dato 10 guinee e hanno promesso di aspettarmi al Bullhead in Bread Street. Ma quando li ho mandati a cercare che dovevo comparire davanti a Sir Richard Brocas, non c'erano. Ho saputo poi che mi mandavano a Newgate ed ero piena di ansiosi pensieri. Ma un giovane mi ha detto che era meglio andare al Wit, Newgate, che al Compter. Quando sono arrivata a Newgate, avevo solo 18 pence d'argento, oltre al denaro nei capelli, e quei 18 pence li ho dati per il garnish, pedaggio pagato dal prigioniero ai secondini per farsi assegnare un buon posto. Mi hanno assegnato un posto alto nella prigione. Buck, come ho già detto, avendomi vista coi capelli sciolti, ha informato Johnson e Johnson mi ha chiesto se ci avevo piantato del grano. Ha frugato e ha trovato la borsa e c'erano 36 moidors, 18 guinee, 5 corone, 2 mezze corone, 2 monete d'oro da 25 scellini, 4 da 23 scellini e una mezza moneta d'oro. Mi ha detto che dovevo essere furba e non far vedere che ero piena di grano. Gli ho chiesto di tenermelo finché fossi libera e di farmene avere un po' di tanto in tanto quando ne avevo bisogno. Allora mi dice: conosci nessuno che giurerà per te? No, dico io. Puoi trovarmi qualcuno? Non farei una cosa simile per tutto l'oro del mondo, dice lui, se ti credessi colpevole. Così ha preso il denaro e ci siamo lasciati, ma dopo un po' mi ha chiamata giù di nuovo e ha detto: cosa ne hai fatto della borsa? Ce l'ho con me, gli ho detto. Ma cosa mi consigli di farci? Beh, avresti potuto buttarla giù per la latrina o bruciarla, ma dalla a me che ci penso io. Così gliel'ho data. Mr. Allstone, carceriere, Mi ha portata alla cella dei condannati e mi ha interrogata. Ho negato tutto, finché ho scoperto che aveva saputo del denaro. E allora ho capito che la mia vita era andata. Così ho confessato tutto quel che sapevo. Gli ho fatto lo stesso racconto della rapina che vi ho fatto ora. Gli ho detto che avevo sentito che i miei padroni dovevano essere ammazzati a fucilate e volevo che venissero avvertiti. Ho descritto Tracy e i due Alexander, ma quando sono stati presi hanno negato di conoscere Mr. Oaks, che avevamo intenzione di derubare. Di questi fatti abbiamo la versione del prigioniero Roger Johnson, che spera di uscire di prigione per averla denunciata, e del carceriere Alstone, che rendono ancora più infinita la distanza fra la sprovvedutezza di Sara e la sua baldanza. Roger Johnson. La prigioniera è stata portata a Newgate lunedì 5 febbraio. La conoscevo un po' perché veniva a trovare un certo Johnson, un irlandese condannato per aver derubato il tascapane di uno scozzese. Alexander Johnson, processato nel luglio 1732, condannato alla deportazione per aver rubato per il valore di 26 sterline e 10 scellini. Ha visto una cella dove stavano i debitori e ha chiesto se non poteva stare lì. Le ho detto che le sarebbe costato una guinea e che non sembrava una che poteva pagare tanto. Ha detto che se si trattava di 2 o 3 guinee poteva mandare a chiamare un amico che avrebbe trovato il denaro. Poi è andata nella Tap House, la taverna della prigione, fra i criminali, e parlava molto liberamente con loro. Ho chiesto una torcia e l'ho portata in un'altra stanza dove eravamo solo io e lei. Bambina, le ho detto, c'è motivo di sospettare che sei colpevole di questo delitto e perciò ho ordine di frugarti, anche se non avevo nessun ordine del genere, e mi sono messo a tastarle i fianchi e dentro la sottoveste. Mi ha chiesto di non frugarla sotto i vestiti perché non era in condizione e mi ha mostrato la camicia, al che ho desistito. Poi l'ho frugata giù fra i seni e sotto le braccia e lei ha fatto un balzo e ha tirato indietro la testa. Le ho dato uno scappellotto sulla testa e ho sentito qualcosa di duro fra i suoi capelli e tirandole via la cuffia ho trovato questa borsa di soldi. Le ho chiesto come l'aveva avuta e ha detto che era un po' del denaro di Mrs. Duncombe. Ma, Mr. Johnson, dice, ve lo regalerò se lo terrete per voi e non lo farete sapere a nessuno, perché le altre cose contro di me sono solo circostanze e posso cavarmela. Perciò mi basta che mi lasciate 3 o 6 pence al giorno fino all'udienza e poi sarò libera di arrangiarmi da sola. Ho contato il denaro e per quel che mi ricordo c'erano 20 moidors, 18 guinee, 5 monete d'oro da 20 scellini, 5 corone e 2 o 3 scellini. Li ho chiusi nella borsa ed eccoli qui. Giudice, come ha detto di averli avuti? Roger Johnson. Mi ha detto di aver preso il denaro e la borsa da Madame Duncombe e mi ha supplicato di tenere il segreto. Mia cara, le ho detto, non nasconderei questo denaro per niente al mondo. Mi ha detto anche che aveva pagato 3 uomini perché giurassero che il boccale era di sua nonna, ma non poteva contare su di loro, che uno si chiamava William Denny, un altro Smith e ho dimenticato il terzo. Dopo che ho portato via il denaro si è messa un pezzo del pagliericcio nei capelli perché sembrassero gonfi come prima. Poi l'ho rinchiusa, ho fatto chiamare Mr. Alston e gli ho raccontato la storia. Gli ho detto, tenetevi nascosto in un angolo buio per essere testimone di quello che dice e io vado dentro e la interrogo di nuovo. Mr. Alston a sua volta racconta. Il giorno che è stata arrestata Mr. Johnson mi ha mandato a chiamare. E ha detto di averle trovato una borsa di denaro nei capelli. Mi ha fatto vedere il denaro, voleva che lo prendessi io, ma ho rifiutato. Gli ho chiesto dov'era la borsa, mi ha detto che l'aveva lasciata a lei. Gli ho detto che avrebbe dovuto prendere anche quella, perché poteva esserci qualche segno sopra. Ha detto che l'avrebbe chiamata e se la sarebbe fatta dare. E mi ha chiesto di nascondermi e di ascoltare quello che diceva. Perciò mi sono messo in un angolo buio, e lei è venuta e gli ha dato la borsa e gli ha chiesto di bruciarla o di distruggerla in un modo o nell'altro. Ha detto che aveva solo bisogno di testimoni che giurassero per il boccale e per tutto il resto se la poteva cavare. Più tardi mi ha detto che una parte del denaro trovato su di lei era di Mrs. Duncombe, preso dalla sua stanza, che 2 uomini e una donna erano implicati insieme a lei e che lei personalmente era l'ideatrice che aveva progettato la rapina, che li ha fatti entrare e si è seduta sugli scalini a fare la guardia mentre commettevano il fatto, ma che non sapeva niente del delitto, che un certo Will Gibbs era venuto da lei da parte dei 2 Alexander, gli uomini che a suo dire erano implicati con lei e che aveva mandato loro 10 guinee. Il 6 febbraio Sara viene interrogata dal consigliere comunale Sir Richard Brocas e rende sotto giuramento la seguente testimonianza: che sul suo onore, domenica mattina scorsa, verso le 2, lei, l'indagata, era implicata con Thomas e James Alexander, fratelli, e Mary Tracy, che uccisero Elizabeth Harrison, Lydia Duncombe e un'altra persona il cui nome lei, l'indagata, al momento non conosceva, circa al tempo già detto nel temple di questa città, fatto che avvenne nel seguente modo: che lei, l'indagata, aveva avuto molti abboccamenti con le suddette persone a proposito del furto di Mrs. Duncombe e che verso le 10 di domenica notte James Alexander era entrato nelle camere di Mrs. Duncombe e si era nascosto sotto il letto fino alle 2 circa, quando aveva aperto la porta e fatto entrare Mary Tracy e Thomas Alexander nelle dette camere, e che lei, l'indagata, era rimasta sulle scale a fare la guardia mentre essi commettevano i suddetti omicidi e contemporaneamente rubavano da quelle stanze circa 300 sterline in denaro, un boccale da birra d'argento e un cucchiaio d'argento, con diversi altri beni di grande valore. Questo denaro e questi beni erano stati dalle suddette persone portati a lei e poi distribuiti in parti uguali fra di loro, fra le 4 e le 5 del mattino di domenica. La testimonianza non sarà accettata al processo in quanto resa sotto giuramento e non liberamente. Comunque, a partire da questo momento, comincia la caccia ai presunti complici ed è così che troviamo i numerosi indirizzi di Mary Tracy forniti da Sara per consentirne la cattura. I 3 vengono arrestati e portati a Newgate. Sara, informata che Mary Tracy e i 2 Alexander sono stati arrestati, sorride soddisfatta. Morirò contenta ora che gli assassini sono stati presi. I 2 ragazzi e la donna vengono condotti davanti a lei perché confermi se sono le persone che ha accusato. Appena li vede entrare nella sua cella, Sara dice: «Sì, sono queste le persone che hanno commesso l'omicidio». E poi si volge verso Mary. «Tu lo sai che è così!» E lo dice con un ardire che sorprende i presenti. Poi, rivolgendosi ancora a lei, continua: «Lo vedi, Mary, a che cosa mi hai portata? È per colpa tua e dei 2 Alexander che sono trascinata a questa vergogna. E ora dovrò morire per questo. Mi avevate promesso che nessuno sarebbe stato ucciso. E poi, con grande sorpresa, ho dovuto scoprire una verità così diversa». I came to this country in 1849. I saw many true loves, but never saw mine. I view all around me, and I am alone. And me a poor soul. Not the long journey I'm dreading to go, nor live in the country for the debts that I owe. There's nothing that grieves me, no troubles my mind, like leaving pretty Sarah, my darling, behind. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sara Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carovolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.